Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, daremo anche atto di quanto emerso oggi dal Consiglio dei Ministri della Banca Centrale Europea, che ha, come ampiamente atteso, lasciato i tassi invariati all'1% e poi ha ribadito che la crescita dell'area euro nel 2010 sarà fra lo 0,7 e l'1,3%, i tassi sono adeguati, la ripresa è in corso, giudizi sempre da parte del numero uno della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, sulla Spagna, che ha detto che gestisce benissimo la situazione. Devo dire che però in Spagna i rendimenti delle obbligazioni continuano a crescere e quindi aumenta la differenza tra quanto costa al governo spagnolo finanziare il suo debito e quanto costa al governo tedesco, che è il riferimento, il benchmark, come si dice in gergo. Lo spread tra obbligazione spagnola, la differenza tra quanto rendono obbligazioni spagnole e quanto rendono obbligazioni tedesche, ormai è praticamente come rendimento siamo al 67% in più di quanto rendeva ad aprile, l'interesse medio del 3,31%. La richiesta però oggi di obbligazioni spagnole è stata solida, quindi non c'è, speriamo che non ci sia mai, una tensione sul mercato. La Spagna doveva collocare infatti bond, obbligazioni a 3 anni per un valore di quasi 4 miliardi di euro. La richiesta è stata più che doppia, 8 miliardi e 200 milioni. È buona, e questa è sicuramente una buona notizia per noi, anche la richiesta arrivata per i bot del nostro tesoro, anzi un vero e proprio boom, perché il tesoro italiano oggi doveva offrire 3 miliardi, doveva trovare 3 miliardi di euro per un'obbligazione, un bot a 3 mesi, e 5 miliardi e mezzo per un bot a 1 anno. Ebbene, la domanda è stata per il bot a 3 mesi tripla, cioè 10 miliardi, e per il bot a 1 anno doppia, cioè, anzi anche lì quasi tripla, 13 miliardi, che vuol dire che c'è richiesta, c'è domanda, e per fortuna noi non abbiamo problemi a rifinanziare il debito sul mercato. Qualche dato poi economico italiano, su questo rivista leggermente a ribasso la stima sulla crescita economica nei primi 3 mesi dell'anno in Italia, ma bene e buono il dato sulla produzione industriale, adesso ne parliamo. E poi i temi della manovra, le preoccupazioni ma anche i giudizi degli imprenditori. Nella seconda ora del programma parleremo con Federica Guidi, che è la Presidente dei Giovani Industriali. Domani si apre il convegno di Santa Margherita Ligure, in cui si parlerà anche di riforme. E una su tutte, la semplificazione burocratica per le imprese, è giorni che ce ne occupiamo, il disegno di legge Vignali, l'idea di riuscire ad avere uno snellimento in tutte le procedure, anche non necessariamente toccando o per forza dovendo attendere la riforma dell'articolo 41 della Costituzione. Parleremo di Sudafrica anche oggi, perché domani partono i mondiali, a noi interessano, come ogni volta che ci sono i mondiali, i profili economici, la ricaduta economica per il paese, le imprese italiane che hanno tratto beneficio dei mondiali sudafricani perché hanno vinto appalti, lavori e quant'altro, e anche quelle che sono le attese soprattutto sul turismo e, va detto, già un po' ridimensionate di appunto arrivi in Sudafrica, chiaramente tifando come sempre per gli azzurri. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo dalle borse, che vanno bene e stanno anche chiudendo sui massimi. Bene infatti Milano, più 2,7% in questo momento, bene Parigi, più 2,1%, Francoforte più 1,40%, Londra più 1%, l'America più 2,3%, molto forte Wall Street quindi, ed è in netto recupero anche l'euro, euro quota 1,2120 sul dollaro, molto forti i bancari oggi in Europa, Banco Popolare più 5%, Intesa San Paolo più 4,94%, Popolare di Milano più 4,40%, Unicredito più 4,21%, Exor più 4,3%, Mediaset più 4,75%, Monte dei Paschi più 4,20, bene anche Fiat più 3,90, come Fondiaria Assai e Autogrill. Il 3,5% lo guadagna Unipol e anche CIR e Bulgari. Il 3% lo guadagna Atlantia, ma anche Telecom Italia e le Generali e Pirelli più 3%. Anche Italcementi guadagna adesso il 3%. Il 2,70 rialzo di Saipem e di Azimut. Il 2,5% quello di UBI Banca, ma anche di ST Microelectronics, Mediobanca e A2A. Il titolo che guadagna meno oggi di titoli negativi tra quelli maggiore capitalizzazione non ce ne sono è Eni più 0,5 e poi l'automatica più 0,6. Allora, il petrolio è forte ma continua a salire un punto percentuale oggi a New York in rialzo, siamo a $75 al barile, invece continua a crollare dopo il crollo di ieri a Wall Street, anche oggi alla Borsa di Londra. Il titolo British Petroleum, lì, insomma, i danni causati nel Golfo del Messico, i danni che costerà pagare, cioè i costi che costerà pagare questi danni per British Petroleum, ma anche il venir meno di 300.000, almeno 300.000 barili di produzione al giorno nei prossimi 5 anni. Beh, il titolo ha perso ieri il 13% a Wall Street, oggi è arrivato a perdere a Londra il 15%, poi ha recuperato qualcosa, e David Cameron, il numero uno di premier britannico, ha detto di essere pronto a sostenere la British Petroleum nelle operazioni di pulizia che la compagnia petrolifera dovrà effettuare nel Golfo del Messico. E poi il numero uno di British Petroleum, Tony Hoyard, è stato convocato da Barack Obama la prossima settimana alla Casa Bianca, e lì sarà interessante capire le richieste che un furente Barack Obama farà al colosso petrolifero britannico, non solo uno dei primi produttori di petrolio al mondo. Tra l'altro di questo ha parlato oggi anche il presidente dell'Unione Petrolifera Italiana, Pasquale De Vita, nostro ospite molte volte quando trattiamo i prezzi della benzina. Ha detto: nel Golfo del Messico ci sono stati senza dubbio errori e sottovalutazioni, in Italia però sono esclusi i rischi per il tipo di esplorazione e produzione che avviene nel nostro paese. E anche dato i dati sul settore, per la raffinazione è stato il peggior anno 2009 da 20 anni a questa parte, i tassi di lavorazione degli impianti di raffinazione sono scesi all'80% a causa del crollo dei consumi e della nuova concorrenza. E poi ha ribadito: no ai teoremi accusatori, i prezzi nostri sono già, questo è veramente incredibile, sono già sotto la media europea. Paghiamo il carburante anche meno della media europea. Non so quale sia la media europea a cui fa riferimento De Vita, a noi risulta che in realtà il carburante costi molto meno in altri paesi europei, comunque insomma diamoci anche un taglio. Andiamo avanti, deficit americano, il deficit commerciale ha toccato nuovi record, praticamente ai massimi da un anno, ad aprile è salito dello 0,6%, l'America, nonostante, oddio, il dollaro si è rafforzato nei confronti dell'euro, comunque continua a importare per 40 miliardi di dollari al mese, più di quanto non riesca a esportare. Allora, i tassi europei, la Banca Centrale Europea li ha lasciati invariati, sono adeguati all'1%, livello bassissimo, e secondo Jean-Claude Trichet, appunto il numero uno della Banca Centrale Europea, sono a un livello appropriato per il tipo di ripresa in atto. The Governing Council decided to leave the key ECB interest rates unchanged. Il consiglio direttivo della BCE ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Il livello attuale è appropriato, considerando le informazioni disponibili. Ci aspettiamo che gli sviluppi sul fronte dei prezzi rimangano moderati nel medio termine. La ripresa economica nell'area euro è continuata nel primo trimestre dell'anno, anche se la crescita a livello trimestrale è disomogenea. Guardando più avanti, ci attendiamo una crescita moderata dell'economia della zona euro in un contesto di mercati finanziari ancora in tensione e di persistente incertezza. Le nostre analisi confermano che la pressione inflazionistica nel medio termine è contenuta. Le attese sono per un'inflazione ancorata e in linea con l'obiettivo di mantenerla al di sotto, ma vicina al 2% nel medio termine. But close to 2% over the medium term. E poi appunto il giudizio positivo su come la Spagna sta gestendo la sua situazione. Dei dati italiani a cui facevo riferimento, l'Istat ha rivisto al ribasso la crescita economica per l'Italia questo, nei primi tre mesi dell'anno, più 0,4 invece che 0,5. Buono invece il dato sulla produzione industriale italiana: ad aprile ha fatto un più 1% rispetto a marzo, ma soprattutto ha fatto un più 8,7% rispetto all'anno prima. Ora ricordo che nel 2009 la produzione industriale ha fatto un meno 25% quasi complessivamente. È chiaro che se dovesse essere confermata una crescita quest'anno intorno al 9%, 8,5%, 9%, vorrebbe dire che ci metteremo 2 anni e mezzo, 3 anni massimo a recuperare i livelli del 2009, quindi insomma, se tutto si sposta verso il 2013, che secondo tutte le stime dovrebbe essere l'anno in cui il PIL italiano tornerà ai livelli del 2008. E il Centro Studi Confindustria è positivo anche sul mese di maggio quanto a produzione industriale italiana, un più 1,8% rispetto al mese di aprile, e in questo modo si rafforza il recupero dai minimi della recessione. Abbiamo recuperato un 10%, manca da recuperare un 18%. È un settore particolarmente colpito anche l'anno scorso dall'andamento della crisi, è stato quello del calzaturiero. Nel 2009, pensate, la produzione nazionale di calzature è calata del 12% in volume, cioè siamo riusciti a produrre 200 milioni di paia di scarpe, è calata dell'11,5% in valore, 6,5 miliardi. C'è qualche segnale di recupero, anche perché l'anno scorso l'export è andato molto male, meno 13% l'export di scarpe made in Italy. Ne ha parlato il direttore Gianfranco Fabi con il presidente dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Calzaturieri, e mi riferisco a Vito Artioli. I calzaturieri, come tutti i settori manifatturieri europei, in particolare quelli italiani, hanno passato un annus horribilis. Diciamo che gli ultimi due mesi, novembre, abbiamo avuto una stasi nella caduta, e dicembre c'è stato un piccolo rimbalzo di ripresa del 2009. Però poi gennaio e febbraio sono stati, del 2010, sono stati negativi, il che ci ha allarmato non poco. E soprattutto anche le cifre sull'esportazione. Noi viviamo per l'80% del prodotto in esportazione. Abbiamo esportato un po' meno, soprattutto nei paesi europei, così come in Italia abbiamo venduto un po' meno, quindi un po' meno in Italia, un po' meno negli altri paesi dell'Unione Europea. Però abbiamo qualche segnale che tutto il settore cuoio pelli ha una ripresa notevole. Purtroppo non abbiamo il dato rilevato specifico del settore calzature, abbiamo solo quello globale. Certamente le calzature si riprendono sempre un po' più tardi, perché naturalmente rispetto alle materie prime eccetera partono un po' più tardi, si deve produrre, si deve vendere. Però è anche vero che le mostre, in particolare la mostra di Milano, che è la più importante del mondo, ha avuto un'affluenza superiore al solito, abbiamo avuto una vendita di spazi confortante, abbiamo avuto visitatori più del solito, e poi anche le mostre che abbiamo tenuto dopo in Russia ci hanno confortato, e anche nei paesi del CSI ci hanno confortato. Quindi una situazione in cui è possibile essere ottimisti guardando al futuro. Diciamo che non siamo ancora al rimbalzo. La mia impressione è che abbiamo seminato bene all'inizio di quest'anno e che quindi qualcosa raccoglieremo. Quindi sono moderatamente ottimista, non nel senso che si possa ritornare nel vecchio continente ai dati di prima della crisi, ma lentamente ci torneremo. Noi dobbiamo però puntare, l'abbiamo visto dalle statistiche, soprattutto sui paesi emergenti, dove le nostre scarpe hanno un grandissimo successo. Vedi Russia, vedi questi paesi che comprano sempre di più. Un ritorno naturalmente agli Stati Uniti, perché il dollaro che in questo momento ha un valore molto superiore rispetto a qualche mese fa, sicuramente incoraggia gli acquisti da parte degli americani. Anche la Cina. La Cina per ora è una promessa, secondo me mancata, nel senso che i cinesi adorano le nostre scarpe, desiderano farle altrettanto belle, non ci riescono, io mi auguro che non ci riusciranno mai, vendono scarpe con marchi italiani ma prodotte in Cina su modelli italiani e quindi consumano scarpe su modelli italiani prodotte in Cina, ma le scarpe esportate dall'Italia alla Cina sono veramente una cifra irrisoria. E allora auguri anche ai produttori di scarpe e calzaturieri. Noi restiamo sull'Italia perché oggi è saltato il taglio delle mini province inserite nella carta delle autonomie. Non avevamo dubbi, praticamente il Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e nonché il relatore del provvedimento Donato Bruno ha presentato un emendamento che va a sopprimere l'articolo 14 di questo provvedimento che prevedeva appunto di cancellare le province sotto i 200.000 abitanti, quindi non se ne fa nulla né in finanziaria né nella carta delle autonomie, tutti a favore delle province anche quelle sotto i 200.000 abitanti. Invece nel Consiglio dei Ministri è stata recepita la richiesta europea di alzare l'età pensionabile per le donne dal 2012. Le donne andranno in pensione nel pubblico impiego a 65 anni. Lo scalone partirà appunto dal 2012 da 61 a 65 anni. Le risorse che deriveranno dal risparmio dell'innalzamento dell'età pensionabile per le donne andranno in un fondo vincolato ad azioni positive per la famiglia e per le donne. Non è specificato quali azioni positive siano, ma sentiamo il ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna, che ha così illustrato il provvedimento. Questa, come è già stato detto più volte, è una norma predisposta per ottemperare a una sentenza della Corte di Giustizia europea che impone, non c'è dubbio, un piccolo sacrificio a carico delle dipendenti pubbliche, e la preoccupazione del governo è stata quella di fare in modo che questo sacrificio venisse in qualche modo compensato. Ci siamo chiesti come fare a compensare l'obbligo delle donne di restare qualche anno in più sul posto di lavoro. Ecco che è nata l'idea del fondo strategico a sostegno dell'economia reale, che sarà destinato a interventi dedicati a politiche familiari e sociali, con particolare attenzione alla non autosufficienza, e ringrazio per aver accettato la mia indicazione, con particolare attenzione alle esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle donne. E noi restiamo in tema di Consiglio dei Ministri, vedo molti messaggi a 349-238-6666, dal tetto agli stipendi della pubblica amministrazione, quello che in sostanza blocca gli stipendi, la busta paga del dicembre 2010 fino al 2013, sono esclusi i membri delle autorità indipendenti, quindi l'autorità di vigilanza e controllo, gli amministratori delle società non quotate e le loro controllate, nonché i dipendenti della Banca d'Italia. E invece il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla proposta del ministro Calderoli di tagliare gli stipendi in Rai. Per gli stipendi superiori ai 90.000 euro un taglio del 5%, per la quota parte, cioè per quella parte compresa fra 90 e 150.000 euro, e invece del 10% per la parte sopra i 150.000 euro. E poi via libera del Consiglio dei Ministri alla vigilanza sulle agenzie di rating, ossia la Consob vigilerà anche sulle agenzie che danno i voti ai soggetti che mettono ha il debito dei soggetti privati come le società, ma anche di soggetti pubblici come appunto gli stati sovrani. Ancora, il Dipartimento delle Politiche per lo Sviluppo, che comprende i fondi FAS, i fondi diciamo, per le aree depresse e i fondi comunitari, è stato tolto al Ministero dello Sviluppo Economico e inserito fra le competenze del Ministero e del Ministro per gli Affari Regionali, quindi Raffaele Fitto. E poi commento sulla manovra. È tornata in audizione oggi alla Commissione Bilancio del Senato a parlare della manovra finanziaria la Presidente Confindustria Emma Marcegaglia. Ha detto che la manovra è il minimo necessario per le esigenze del Paese, la linea del rigore non ha alternative, occorre mantenere la linea dei tagli alla spesa, però oggettivamente taglia poco i costi della politica, come ha spiegato poi dopo l'audizione al nostro Nicola Accardo. Abbiamo ribadito un giudizio positivo perché serve una manovra che tagli e che mette in ordine i conti pubblici. Abbiamo però rilevato alcune criticità, in particolare appunto il fatto che soprattutto nei tagli alle regioni questi tagli poi non finiscano per essere tagli ai, come dire, ai supporti per le imprese sull'internazionalizzazione, sulla ricerca, che sono i temi per noi molto importanti. Abbiamo sottolineato che sui certificati verdi noi chiediamo l'abrogazione di questa norma perché creerebbe un grande problema a un settore come quello delle rinnovabili, che invece va sì rimesso a posto ma in una logica europea, e insomma abbiamo chiesto che ci sia di più per la crescita, in particolare per la ricerca, che è elemento fondamentale, quindi abbiamo chiesto almeno uno stanziamento di 1 miliardo all'anno per la ricerca. Le riforme strutturali di cui parla in che direzione dovrebbero andare? Secondo noi dovrebbero andare su un meccanismo che in modo definitivo riduca il perimetro di azione dello Stato, un po' come ha fatto la Germania nella sua manovra, e poi chiediamo anche una maggiore attenzione alle liberalizzazioni, ulteriore semplificazione, anche se alcuni elementi di semplificazione ci sono, la conferenza dei servizi, lo sportello unico, ma ancora di più sulla giustizia e anche un investimento in infrastrutture che invece in questa manovra rischia di essere tagliato. L'ha colpita la pochezza di tagli alla politica? Sì, c'è molto poco, per una logica come dire di tagli da fare e anche di come dire senso di sacrifici che vengono distribuiti su tutti, si poteva fare di più. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Radio Cori sulle 24 ore, parliamo quindi di borsa. Allora, buona giornata oggi, finalmente netto il rialzo, vedremo se verrà confermato domani, e netto soprattutto, Livia, per il settore bancario, non tanto per la Banca Centrale Europea quanto per vicende anche italiane. Il Banco Popolare è la banca migliore, più 5,1%, qui poi c'è l'accelerazione su Cari Pescara, no? Sì, allora in questo caso le azioni, oltre a beneficiare appunto del rialzo del settore in Europa, hanno beneficiato dell'accelerazione nella vendita di Cari Pescara a Banca Tercas. Infatti il direttore generale della Banca di Teramo ha dichiarato che l'accordo potrebbe concretizzarsi entro qualche settimana. Inoltre sempre oggi il direttore finanziario del gruppo, Maurizio Faroni, a Madrid per la conference di Goldman Sachs, ha sottolineato che in termini relativi il Banco Popolare appare meno colpito dalle possibili modifiche regolamentari relative a Basilea III. Per vari motivi, tra cui la forte presenza retail e la liquidità soddisfacente. Ancora, non è solo il Banco Popolare che si avvantaggia. Intesa San Paolo guadagna il 4,6, la Popolare Milano il 4,3, il Monte dei Paschi il 4%, come Unicredito, Fondiaria il 3,70, Unipol il 3%. Insomma, bene, oggi tra i bancari che sono cresciuti un po' meno, citiamo Generali più 2,80%, Mediobanca più 2,2, Mediolanum più 2,1%. Tutto intonato bene, quindi il settore, Livia, e non è l'unico, perché anche Exor è cresciuto molto, più 4%, e Fiat del 3,70%. Exor, Fiat e il resto del settore bancario. Sì, Allora, le extra Fiat hanno beneficiato innanzitutto del rialzo del comparto auto, che ha guadagnato oltre il 3%, trascinato soprattutto dalla performance di Daimler, che secondo gli operatori potrebbe toccare nuovi massimi dell'anno, e il gruppo tra le altre cose prevede per il 2010 un aumento delle vendite di Mercedes del 7%, che è il doppio rispetto al tasso di crescita del mercato. Per quanto riguarda Exor, che è il socio di riferimento di Fiat, c'è un'altra novità, nel senso che oggi la società ha annunciato la nascita di una partnership con due gruppi internazionali importanti per realizzare investimenti di private equity in India e Cina. L'impegno di Exor sarà di 100 milioni di dollari, mentre la partnership dispone di un ammontare iniziale di 250 milioni di dollari. Dicevamo dei titoli che bene sono andati oggi. Chi si è mosso in maniera meno forte è stato il settore petrolifero, sulla scia del crollo di British Petroleum a Londra. Non a caso notiamo che Eni è il titolo che è cresciuto meno, più 0,6%. Sì, infatti sul settore petrolifero, che è l'unico che ha chiuso in calo oggi dello 0,8% circa, ha avuto un impatto negativo il calo di British Petroleum a Londra, sempre sui timori che il gruppo possa rivedere la politica di dividendi e pagare costi superiori alle attuali previsioni per arginare la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico. British Petroleum ha già stimato costi per il disastro nel Golfo del Messico intorno a 1,43 miliardi di dollari. Eni ha registrato un andamento negativo per quasi tutta la seduta, ma alla fine ha beneficiato del rally dei listini, ha chiuso appunto a più 0,59%. Ancora sui titoli, qualche realizzo su Mondadori, anch'essa non tra i migliori oggi, ma stiamo parlando sempre di titoli positivi, e l'automatica è l'altro titolo un po' incerto, più 0,70%. Su Autogrill invece più 3,6%, vorrei un commento rapido, Livia, e poi invece vi do anche subito i migliori e peggiori: TAS meno 5,80%. E Enervit meno 3,83, i migliori invece risanamento più 11,8, Interpump più 7,80. Allora, direi l'automatica da un lato e Autogrill dall'altro. Sì, allora, per quanto riguarda appunto tra i titoli positivi, Autogrill, allora, secondo gli operatori le azioni hanno beneficiato di una ripresa forse di interesse sul settore ciclico, ma soprattutto dei dati IATA sul traffico aereo, considerando appunto che Autogrill è attiva anche nella ristorazione aeroportuale, e qualche giorno fa appunto la IATA ha annunciato che nel 2010 le compagnie aeree mondiali guadagneranno 2,5 miliardi di dollari, che è una previsione in notevole miglioramento rispetto alle stime che erano state pubblicate a marzo, che indicavano invece una perdita a livello mondiale sempre di 2,8 miliardi di dollari. Per quanto riguarda l'automatica, allora l'automatica ha passato quasi la maggior parte della seduta in territorio negativo e ha chiuso poi a 11,4 euro, è praticamente tornata sui minimi storici che erano stati segnati dal titolo il 25 maggio, oggi comunque è scesa anche a 11,2 euro. Il 25 maggio il titolo aveva risentito dello stacco della cedola avvenuto il giorno prima, infatti in due sedute le azioni avevano perso il 10,5% circa. Da quella data le azioni poi avevano iniziato a recuperare terreno fino al 3 giugno per poi ritornare a scendere, quindi si tratta in quest'ultimo periodo di più che altro di realizzi. Comunque oggi bisogna dire che il titolo ha chiuso in territorio positivo a più 0,7. Sì, però giustamente facevano notare alcuni ascoltatori che insomma, il calo è stato forte in queste nelle ultime sedute. Grazie a Livia Zancaner, Radio Colle, Sole 24 Ore. Adesso restiamo a parlare di economia, di indotto, di export, import, ma con un paese che da domani diventa il centro del mondo, perlomeno calcistico, e quindi per quanto ci riguarda del mondo, e mi riferisco al Sudafrica. You're a good soldier, choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front. No, non siamo impazziti, è Shakira, la canzone Waka Waka è la canzone che è la sigla di questi mondiali che domani debuttano ufficialmente. But you got it all, believe E mondiali vuol dire anche giro d'affari, vuol dire anche ricaduta sul turismo e non solo in Sudafrica, vuol dire anche imprese italiane impegnate e che dialogano con quello che è lo stato, diciamo, più ricco di tutta la parte africana subsahariana. Ecco, il Waka Waka torna in collegamento, ormai esausto, il nostro Dario Ricci, che si trova a Johannesburg da qualche giorno. Dario, buonasera, buongiorno, come vuoi tu. Tanto il buonasera, fuso, buonasera. Il fuso è poco. Anche perché sarà una grandissima serata proprio all'insegna di Shakira e di tanti altri cantanti che fra poco si esibiranno all'Orlando Stadium di Soweto, gustosissimo antipasto di questa... di questo mondiale attesissimo. Da domani si comincia e proprio di fronte a me, a un centinaio di metri, ho il Soccer City Stadium con la sua fantastica forma da calabash, il recipiente tipico simbolico dell'Africa e il suo tetto fatto da un'impresa italiana, Sebastiano. Eh sì, e poi la citeremo anche perché possiamo fare i nomi quando sono imprese italiane che vincono le commesse. Prima di andare con le informazioni sul traffico, poi sentiremo anche la scheda su Sudafrica, dimmi una cosa, è vero che per quello che riguarda la ricaduta in termini di turismo già le stime le stanno leggermente correggendo i sudafricani? Ma diciamo che quelle iniziali sono sempre stime molto ottimistiche, no? E parlavano di circa 450.000 tifosi che sarebbero venuti in occasione dei mondiali, stime che poi sono state un po' rilimate, riviste in leggero ribasso in modo più realistico, però che rimangono comunque consistenti. Sì, in realtà sì, diciamo, le particolarità di questa sede, la prima sede africana di un campionato del mondo, possono avere in qualche modo sì incoraggiato i turisti a venire, ma anche spaventato qualcuno. Come sono le distanze? Perché insomma tu ci raccontavi in questi giorni, insomma, di spostamenti difficili. Beh, sicuramente sì, perché chiaramente la rete dei trasporti pubblici è di fatto inesistente, soprattutto nelle aree urbane, quindi questo crea... Ci si muove in macchina e chiaramente si cerca di venire a patti col traffico tra Johannesburg e Pretoria, che sicuramente è consistente. E tant'è che per domani, pensa, il fischio d'inizio alle 16, cerimonia inaugurale che inizia alle 14, la TV stamattina ha invitato tutti a cominciare a muoversi verso le 9 di mattina. Allora, torniamo a parlare del Sudafrica, dell'economia, del rapporto con l'Italia. Intanto, Dario Ricci, la cosa interessante di questo mondiale è che tornerà a essere un mondiale che molti milioni di sudafricani ascolteranno via radio. Ci sono intere zone del paese, infatti penso al Tonkomane, al Taung, al Matsazi, in cui insomma non arriva l'elettricità, l'80% della regione è senza corrente, 66.000 baracche solo nel Tubazze sono al buio, per cui insomma l'idea di un mondiale ascolto per radio è un'idea per noi storica, ma sicuramente non del presente. Sentiamo invece che cos'è il Sudafrica come economia da questa scheda. Ottimi tassi di crescita in questi anni, tranne l'anno scorso, e buono anche il rapporto con l'Italia. Volete sapere chi ha costruito il tetto dello stadio? È la Cimolai di Pordenone, azienda italiana molto famosa perché costruisce anche parte delle nostre autostrade. Complimenti alla Cimolai, la scheda. Paese dall'economia dinamica e con una crescita del 5% negli ultimi tre anni, solo nel 2009 ha conosciuto il primo stop, con il PIL sceso dell'1,8%. Quarto produttore al mondo di oro dietro a Cina, Australia e USA, il Sudafrica è il nostro principale partner commerciale dell'Africa subsahariana, con un interscambio commerciale di oltre 2,7 miliardi di euro. Siamo il 15° importatore, soprattutto metalli preziosi e prodotti siderurgici, e 11° esportatore in particolare di macchinari e medicinali. Significativa la presenza nel paese di connazionali e discendenti italiani, circa 60.000, mentre sono 3.500 le imprese italo-sudafricane attive soprattutto nel settore costruzioni, alimentare, meccanica, trasporti e turismo. Il calcio d'inizio, che tra poco darà il via ai campionati di calcio, rappresenta soprattutto il volano per un paese ancora profondamente diviso socialmente. è stato calcolato che il giro d'affari derivante dai mondiali porterà a un aumento dello 0,5% del PIL del Sudafrica, che per la manifestazione ha speso 3,3 miliardi di euro. La fetta più grossa è in infrastrutture, 1,2 miliardi, seguita dal miliardo per la rete dei trasporti e per la costruzione o ammodernamento degli stadi. Ma qualche record questo mondiale l'ha già stabilito ancora prima del fischio d'inizio. In diritti TV, la FIFA ha incassato oltre 2 miliardi di euro, il 50% in più di Germania 2006. Aumento vicino al 60% rispetto a 4 anni fa del montepremi che si spartiranno le squadre, 351 milioni di euro, di cui 30 alla vincitrice. Importanti anche gli investimenti degli sponsor, 104 milioni di euro dalla Nike, 85 dalla Adidas e 30 dalla Puma. Infine, la vittoria in campo potrebbe rivelarsi significativa anche per l'economia del paese vincitore, con il possibile rialzo del PIL intorno al 2%. Allora, poi Dario Ricci, ascolteremo alcune delle interviste che tu hai realizzato dopo il GR, però per quello che riguarda invece la ricaduta economica del paese, si nota lo sforzo del Sudafrica, che comunque, insomma, come ricordava la nostra scheda, è un paese molto dinamico, ma viene da una situazione anche difficile. Dario? Beh sì, sicuramente è sotto gli occhi di tutto il grande sforzo organizzativo e infrastrutturale che il paese ha fatto e che sta facendo, perché molti cantieri sono ancora aperti, quelli non direttamente finalizzati alla Coppa del Mondo 2010 o che per causa di forza maggiore hanno mancato l'appuntamento. Non a caso proprio due giorni fa Johannesburg era tutta eccitata all'idea dell'inaugurazione del treno superveloce che lo collegherà e anzi già collega l'aeroporto internazionale con il quartiere di Sandton. Costo del biglietto 100 rand, che è equivale a 10 euro e che è una cifra non indifferente per il Sudafrica, ma comunque è un'infrastruttura che due mesi fa sembrava data per persa di fatto, che poi invece è stata portata a termine in tempo utile. Vedo molti messaggi al 349-238-6666 sulle radio. Abbiamo detto che in alcune parti del paese, mancando l'elettricità, in alcune zone anche all'80%, i mondiali saranno seguiti come da noi prima della guerra o subito dopo la guerra, cioè via radio. Alcuni chiedevano: ma se non c'è l'elettricità useranno le batterie? Abbiamo risposto, molti ci hanno fatto notare che esistono in Sudafrica, e non solo in Sudafrica, le radio che si caricano con la dinamo a manovella e che furono fortemente volute da Mandela già 15 anni fa. Benissimo, prendiamo atto, grazie per il contributo. E allora sentiamo nel frattempo che quali sono le prospettive anche delle imprese italiane in Sudafrica, perché è un modo anche per occuparsi, come raccontava la nostra scheda, di un paese che tranne l'anno scorso ha avuto una crescita del PIL del 5% annuo ed è il quarto produttore al mondo di oro. Noi siamo appunto il 15° importatore dal Sudafrica, che comunque resta il nostro principale partner commerciale con l'Africa subsahariana. Abbiamo un interscambio commerciale di 2 miliardi e 700 milioni di euro. Tu, Dario Ricci, hai intervistato Gianluca Renato, che è il managing director di Pirelli Tire Sudafrica, che ti ha raccontato in primo luogo la presenza italiana, la loro presenza in Sudafrica. Qui il mercato è abbastanza sviluppato, quindi la nostra gamma di prodotti in realtà è completamente rappresentata. Qui, a guardare solo le realtà e il parco circolante, soprattutto di città come delle regioni come il Gauteng e Cape Town e Durban eccetera, sicuramente abbiamo un'ottima penetrazione. Da un punto di vista di mercato, la difficoltà o comunque la competizione che abbiamo è anche data da quattro produttori locali, che sono peraltro tre dei quali sono i maggiori marchi mondiali. Però da un punto di vista di quota di mercato e di mix, Pirelli Sudafrica soprattutto da un anno a questa parte sta crescendo, ha sicuramente un'ottima quota. Ma ci sono modalità particolari con cui avete approcciato questo mercato? È un mercato abbastanza vasto, nel senso che appunto poi penso sia 3-4 volte l'Italia, quindi a livello distributivo non è semplicissimo. Le infrastrutture negli ultimi 1-2 anni stanno comunque incrementando anche grazie appunto ai mondiali di calcio. La particolarità che io ho trovato, io sono qui da un anno, è che comunque ci sono delle reti distributive molto ben organizzate, alcune sono delle vere e proprie boutique del pneumatico. Questo forse è legato al fatto che i movimenti qua, le distanze sono molto ampie, la macchina è un mezzo assolutamente necessario e ci sono anche grossi stabilimenti di produttori. Senta, alla luce di quella che è la sua esperienza sul campo, consigli utili per l'imprenditore che vuole sbarcare in Sudafrica? La realtà sudafricana è abbastanza sicuramente è difficile da approcciare, ma è in grossa crescita ed è comunque ricca. Diciamo che se non sbaglio la capitalizzazione della borsa di Johannesburg è 3 volte il prodotto interno lordo. Insomma, comunque ci sono delle realtà veramente interessanti. I consigli o comunque le realtà che ho visto io è che sicuramente è un paese in cui si può giocare una partita, si può partire anche da zero. Il Made in Italy è apprezzatissimo a vari livelli, per cui un imprenditore italiano che viene comunque ha già un passetto in più rispetto ad altri. I capitali, le strutture finanziarie sono solide, le banche, le assicurazioni, tutto questo è comunque, mi sembra, più solido sicuramente dell'Europa in questo momento. Sicuramente è un paese complesso da un punto di vista di integrazione sociale. E allora, questo era Gianluca Renato, responsabile della Pirelli Tire in Sudafrica. Dario Ricci, tu hai sentito anche il rappresentante dell'ICE per capire qual è poi la presenza e l'interscambio tra imprese italiane e imprese sudafricane. Sì, ho incontrato qui negli uffici di Johannesburg Gianpaolo Bruno, il direttore appunto dell'Istituto del Commercio Estero qui in Sudafrica, che ci ha tracciato un po' un quadro di quello che è stato il mondiale già giocato dalle imprese italiane in Sudafrica e soprattutto quelli che sono gli scenari economici tra Italia e Sudafrica. Sentiamo proprio Gianpaolo Bruno. Possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti, probabilmente si sarebbe potuto fare di più, ma comunque devo dire che molte imprese italiane hanno beneficiato delle opportunità di affari catalizzate intorno ai lavori relativi all'organizzazione da parte del Sudafrica del primo mondiale della storia disputato nel continente africano. In particolare abbiamo forse due fiori all'occhiello, no? Il tetto del Soccer City Stadium che è stato realizzato da un'azienda italiana e anche alcuni importanti lavori infrastrutturali, vero? Ce ne vuole parlare? Sì, dunque la copertura di Soccer City, che è stata aggiudicata da un'importante impresa italiana, la Cimolai di Pordenone, e inoltre la CMC di Ravenna, che si è aggiudicata molti lavori di ristrutturazione, di ampliamento della rete stradale. Poi c'è la Tecnogym, che si è aggiudicata anche notevoli commesse per la fornitura di attrezzature ginniche per i diversi campi e le diverse palestre di allenamento di molte delle squadre che partecipano al mondiale. Ha detto però, dice, forse si poteva fare qualcosa in più. Cosa ci è mancato per essere veri protagonisti fino in fondo del mondiale del business? Ma probabilmente ci è mancato un approccio strategico. Forse le carenze che possiamo rilevare sono quelle di non esserci mossi per tempo e non aver cercato, diciamo, di instaurare forme di collaborazione con le autorità sudafricane, con la comunità imprenditoriale sudafricana, al fine di poter favorire la proiezione delle nostre imprese in molti altri segmenti dei lavori associati all'organizzazione dei mondiali. Allora, Dario Ricci, abbiamo sentito dal responsabile dell'ICE che, come sempre, ormai anni che ci occupiamo della presenza italiana all'estero, siamo bravi individualmente, ma poi come sistema ancora fatichiamo. Speriamo che non sia così anche per gli azzurri. Ti leggo una notizia appena battuta dalle agenzie come risposta alle richieste, critiche arrivate dal ministro Calderoli sugli stipendi e i premi dei calciatori. Poco fa Buffon e Cannavaro hanno annunciato che gli eventuali premi che dovesse ricevere la nazionale italiana appunto per i risultati conseguiti nei mondiali andranno al fondo per le celebrazioni dei 150 anni dell'unità d'Italia, visto hanno detto sia Buffon che Cannavaro che hanno problemi di budget queste fondazioni. Arriveranno secondo te i soldi alle fondazioni a questo punto? Speriamo proprio di sì, visto che i premi sono relativi solamente ai primissimi posti e quindi diciamo che intanto questa polemica è stata risolta nel migliore dei modi, direi, commentando a caso la notizia che ha appena dato. È chiaro che l'auspicio di tutti, tra l'altro proprio Buffon ai nostri microfoni pochi giorni fa aveva ribadito quanto questa nazionale rappresentasse proprio l'Italia unita, no? Uno dei momenti fortissimi di unità dei tifosi, della gente, degli italiani. Bellissimo gesto, bellissima decisione quella di destinare questi premi, e allora andiamo a prendere. Ecco, speriamo appunto che non restino senza soldi alle fondazioni per i 150 anni. Come sempre, forza azzurri, e grazie a Dario Ricci in collegamento con noi da Johannesburg. Grazie a voi. Ultima parte di Focus Economia, adesso ci occupiamo del convegno che inizia domani a Santa Margherita Ligure come ogni anno, 40° convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Quest'anno il tema della due giorni è responsabilità e riforme per un nuovo destino del paese. Allora ci colleghiamo con la presidente dei giovani imprenditori, colei che organizza il convegno, Federica Guidi, buonasera. Buonasera a voi. 40 anni compie il convegno di Santa Margherita Ligure, dicevamo, e il tema generale delle due giornate di lavori sarà responsabilità e riforme per un nuovo destino del paese. Ne parleranno tra gli altri l'ex presidente di Confindustria, presidente della Ferrari Montezemolo, Pier Ferdinando Casini, Anna Finocchiaro del gruppo PD al Senato, Maurizio Gasparri, il ministro Renato Brunetta, e poi sabato sarà la volta del ministro Sacconi, del ministro Tremonti. Chiuderà i lavori della giornata la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, e tra l'altro segnalo che domani interverrà anche il presidente del Censis Giuseppe Delita. Molti ospiti come ogni anno, molti anche i temi che verranno affrontati, però Federica Guidi, immagino che il tema di maggiore attualità sarà tutto il dibattito che in questi giorni ha preso piede sulla semplificazione per burocratica e non solo, anche fiscale per le imprese. Si dice lo sportello unico per riuscire ad arrivare a creare un'impresa in un giorno. Comunque c'è un disegno di legge Vignali per arrivare, come raccontavamo anche ieri, a uno snellimento burocratico per chi vuole fare impresa in questo paese, a partire dal silenzio assenso con la pubblica amministrazione, agli sgravi fiscali per chi reinveste gli utili, all'obbligo per lo Stato di non pretendere tasse se ancora è debitore verso l'impresa. Insomma, questo sarà l'attualità, come verrà declinata tra domani e dopodomani. Prego. Beh, certo, commenteremo queste diciamo ultimissime dichiarazioni, e naturalmente non possiamo che valutarle con estremo favore, anche se alcune di queste proposte, vorrei ricordare, ecco, come ad esempio gli sgravi fiscali per chi reinveste gli utili, furono uno dei punti che noi toccammo proprio l'anno scorso a Santa Margherita, in una sorta di decalogo che noi ci permettemmo in qualche modo di presentare, insomma, all'opinione pubblica. E comunque certamente, lo ricordiamo anche noi, lo ricorderemo domani nelle nostre tesi, di semplificazione, di snellimento dei vincoli burocratici, dei lacci e lacciuoli, ne parliamo anche noi giovani imprenditori da questo parco di Santa Margherita da moltissimi anni, quindi certamente lo salutiamo con favore. Speriamo che sia la volta buona, ecco, non so come dire, certamente speriamo che ci possano essere, al di là delle modifiche costituzionali, anche dei sistemi per renderle immediatamente applicabili, magari con silenzio assenso, magari con autocertificazioni, cioè con sistemi che magari possono essere anche più rapidi rispetto a un iter costituzionale che sappiamo essere invece più lungo. Ecco, su questo io ricordavo appunto, domani ne parleremo anche noi in maniera più esaustiva, insomma, il disegno di legge Vignali, ricordo sempre, e lo vedo anche scritto sui messaggi, già approvato di fatto, al sostegno di 130 parlamentari sia della maggioranza che dell'opposizione, dovrebbe essere quindi facile portarlo a casa, e prevedendo anche per i diritti per un ampliamento dei diritti per le imprese, quelli già previsti dall'articolo 41, però insomma, oltre a quello che citavo, ci sono degli elementi, per esempio, di sostegno alle piccole imprese, il 50% degli incentivi per innovazione e internazionalizzazione dovrebbero andare proprio alle piccole e medie imprese. Il dibattito è se per arrivare a una semplificazione burocratica, Presidente Guidi, sia necessario per forza modificare l'articolo 41. Anche qui chiariamo, non è che noi si sia particolarmente affezionati a quell'articolo, è che modificare un articolo della Costituzione prevede un iter molto molto più complesso. Allora ci chiedono gli ascoltatori, ma insomma, per introdurre la regola nei rapporti con la pubblica amministrazione per i certificati del silenzio assenso, cioè che o mi risponde l'ente locale o l'ente statale in 90 giorni oppure per me è un via libera, serve cambiare la Costituzione? Quello che dicevo prima, non credo. Credo che si possano introdurre delle semplificazioni, delle norme, insomma, appunto come silenzio assenso, come l'autocertificazione, che non necessitano naturalmente di una modifica costituzionale. Però noi domani in qualche modo anche su questo qualche proposta la faremo. Crediamo che anche, dato che si parla sempre di riforme in questo paese da più di 20 anni, non se ne fanno tante, diciamo così, ci siano alcune modifiche diciamo istituzionali, come ad esempio modifiche di alcuni articoli della nostra Costituzione, che potrebbero in qualche modo aprire anche un processo, chiamiamolo così, culturale nuovo. Quindi certamente ci possono essere dei sistemi per rendere immediatamente applicabili situazioni di semplificazione burocratica, normativa, che probabilmente non necessitano per essere, diciamo, attuate di una modifica costituzionale, e quindi possono avere un iter molto più rapido. Nello stesso tempo io non escluderei, diciamo così, a priori anche di valutare modifiche al testo costituzionale, perché questo probabilmente significa anche, diciamo, imporre all'attenzione pubblica un principio anche proprio culturale, diciamo così, e quindi un disegno, diciamo, di più ampio respiro, di medio periodo, anziché in qualche modo ragionare sempre per così, diciamo, falle che vengono rattoppate. Ecco, quindi una cosa io credo non escluda l'altra. Certo, appunto, la modifica costituzionale sappiamo essere appunto un iter con una procedura lunga, e quindi piuttosto che attendere questo credo che ci possono essere, come dicevo prima, ecco, delle strade più rapide, più semplici per ottenere un buon risultato, e poi nel frattempo eventualmente fare anche una valutazione più di principio, diciamo così, che potrebbe essere una vera riforma con diciamo con una valenza economica. Ecco, noi crediamo, domani lo diremo, che esistono modifiche istituzionali che non è vero, diciamo, non debbano avere non abbiano mai degli impatti economici. Ce ne sono alcune che invece potrebbero averle in un disegno di più ampio respiro e di medio periodo. Voi il convegno l'avete chiamato quest'anno responsabilità e riforme. Le riforme, mi sembra di aver capito, che partono appunto anche dalla maggiore semplificazione E dell'ambiente economico per l'impresa, di quello che è l'ambiente in cui poi l'impresa deve nascere e crescere. Le responsabilità che siete come giovani imprenditori disposti ad assumervi? Noi diremo domani che, voglio dire, ne abbiamo tanti sul palco, insomma ci sono moltissimi imprenditori, non solo giovani naturalmente, che stanno facendo questo mestiere in Italia, continuando nonostante tutto, e diciamo proprio nonostante, a investire, a crescere, a cercare di portare, diciamo, un valore aggiunto dentro le nostre imprese. E siamo anche dei cittadini naturalmente, per questo che cerchiamo di dare anche un contributo, non facendo politica, ma cercando di dare così un sommesso piccolo contributo al dibattito, per quello che noi vediamo essere una necessità di medio e di lungo periodo, perché questa non è una crisi e basta, questo è un cambiamento di paradigma quello che stiamo vivendo, e se dobbiamo pensare di far crescere il paese, perché diciamo noi domani insomma diremo che rifiutiamo l'antinomia fra politiche di rigore che sono necessarie, ma è necessaria anche la crescita, perché altrimenti non ne veniamo fuori. Ecco, questo significa assumersi una responsabilità un po' generazionale, diciamo così, come giovani imprenditori rispetto ai giovani italiani, ecco, che sono poi quelli che secondo noi hanno uno stretto collegamento con la crescita del paese e la crescita delle imprese, ecco, perché se non facciamo ripartire questo temo che sarà difficile dare realmente ai giovani una prospettiva futura e dire loro che questo senso di insicurezza che comunque c'è e che pervade il paese, diciamo, è pura fantasia. E siamo in conclusione, ma in una battuta ce lo chiedono anche gli ascoltatori, arriverà da parte anche dei giovani un impegno, sempre in tema di responsabilità, che l'imprenditore si prende anche ad appoggiare la lotta all'evasione fiscale, sì, per non dare l'idea sempre che insomma ci chiedano... Abbiamo un passaggio dove diremo fortemente che siamo orgogliosi di fare questo mestiere in Italia, di pagare le tasse in Italia e di rispettare le regole che abbiamo in questo paese. Naturalmente, quello che dicevamo all'inizio, ecco, se queste regole diventassero più eque, più comprensibili, meno onerose e anche, diciamo, la pressione del sistema fiscale fosse, diciamo, leggermente più eco, saremmo ancora più contenti. Ma certamente questo è un impegno che come giovani imprenditori ci prendiamo a favore, naturalmente, prima di tutto di noi stessi come cittadini e poi per il bene del paese, insomma. Beh, in bocca al lupo allora domani. Focus Economia, come ogni anno, sarà in diretta da Santa Margherita Ligure. Grazie per ora alla presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Federica Guidi. Grazie, buonasera a tutti. E siamo in conclusione anche noi. Gli aggiornamenti dei mercati: bene, resta più che positiva l'America, più 2%. Chi si fosse permesso in collegamento, ricordo che Milano ha chiuso molto bene, tra le migliori oggi in Europa, più 2,5%, fortissimi tutti i bancari, a partire dal Banco Popolare, più 5,1%, bene anche Intesa, più 4,60%, Popolare di Milano, più 4,30%, Monte dei Paschi, più 4%, molto forte anche Mediaset, più 4,70%, Exor, più 4%, e Fiat più 3,70%. Euro a quota 1,21,03, quindi in recupero. È veramente tutto per questa puntata. Un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, appunto in diretta da Santa Margherita Ligure. Radio 24. La passione si sente.